Pernottavano in un albergo presso la piazza della stazione, un luogo frequentato solo da italiani della bassa borghesia e da commessi viaggiatori, rumoroso per via del passaggio dei tram e poco promettente in fatto di alta cucina. Ingram aveva preso le camere quel pomeriggio quando la determinazione che Ingeborg a Milano non dovesse star troppo comoda era ancora forte in lui. Ma considerata la piega che avevano preso le cose, il grande passo avanti compiuto in direzione di Venezia, adesso che lei aveva aperto gli occhi sulla realtà della loro situazione, se ne pentì e dovette constatare che il supplizio in materia di vitto e alloggio si era rivelato superfluo. Oramai erano lì, avevano disfatto i bagagli e occupato quelle stanze al primo piano dislocate quasi allo stesso livello dell'incessante flusso dei tetti dei tram, che avevano avanzato a scossoni. A quell'ora tarda, comunque, era impensabile cercare un altro albergo. Ora però, mentre saliva con lei lungo la squallida rampa di scale e la scortava in tutta fretta fino alla porta della sua stanza, prima che qualche commesso viaggiatore eccessivamente borioso l'incontrasse sulle scale e osasse guardarla, era parecchio rammaricato. È un posto indegno per la mia piccola, preziosa compagna, ma Venezia riparerà ogni torto, vedrai. Le stanze che ho là ti piaceranno, e così pure l'ampio panorama che dalle finestre si gode al tramonto quando il sole scende sulla laguna. Domani ci metteremo in viaggio. Le scrutò il viso la luce cruda del corridoio. Era naturale che si sentisse stanca dopo una giornata del genere, ma balzava all'occhio un certo offuscamento della sua persona, una sorta di opacità come quella di una lampada che venga spenta all'improvviso. La cosa lo afflisse. Sapeva che quella luce si sarebbe accesa di nuovo per splendere sempre più viva che mai, ma il pensiero che si potesse affievolire anche per un solo istante lo deprimeva non poco. Indi, lanciando un'occhiata furtiva verso entrambe le estremità del corridoio, prese tra le sue mani di lei e vi appose una serie di baci. Mia piccola cara, vuoi perdonarmi? Ma certo, rispose Ingeborg senza esitare, con tutto il cuore, mentre in un istante percepiva l'acuta desolazione della vita, l'inevitabile danno, l'eterna impossibilità in qualsiasi direzione si dirigessero i propri passi di non calpestare a morte qualcosa di incantevole, palpitante, questo, quello, una cosa o l'altra. Mentre osservava Ingram, gli occhi all'improvviso le si velarono di lacrime. I suoi pensieri smisero di mulinare, inseguendo ogni possibilità di fuga. Ebbe il vivido presentimento che se il suo piano avesse avuto successo si sarebbe allontanata da qualcosa che non avrebbe mai più trovato nella vita. Da una qualità del tutto speciale, di luce e calore, anche se intermittente, da una sorta di eccellenza. Se fosse stata sua sorella, gli avrebbe gettato le braccia al collo e l'avrebbe baciato. Se fosse stata sua madre, l'avrebbe benedetto con solennità. Ma non essendo né l'una né l'altra, non le rimase altro da fare se non compiere il nudo, banale gesto di voltargli le spalle per entrare in camera e chiudere la porta. Udì i suoi passi allontanarsi lungo il corridoio. Si avvicinò alla finestra e lo vide camminare in strada. Non c'era un attimo da perdere. Mentre lui era via, doveva verificare subito gli orari dei treni per sapere quando partire non appena avesse recuperato il suo denaro. Prima doveva pensare al treno, poi a riprendersi i soldi. Sgattaiolò di nuovo in corridoio in preda a un terrore che le impediva di respirare, il terrore che nonostante egli vi fosse uscito, riuscisse in qualche modo a sentire i rumori da lei prodotti e decidesse di tornare indietro per controllare. Lo percorse in tutta la sua lunghezza e discese le scale fino all'atrio, dove era appeso un enorme tabellone con l'orario dei treni, utile e ben in vista in un albergo che non disponeva di un concierge per rispondere alle domande dei clienti sempre in arrivo e in partenza. L'atrio era deserto. Di tutta la giornata quello era il momento più tranquillo e l'uomo con il grembiule verde, che talvolta Ingeborg aveva visto lì a supplire occasionalmente a un vero portiere, sembrava anch'egli assente. I treni per Berlino erano riportati così in alto sul tabellone che Ingeborg dovette issarsi su una sedia. Tremante, tenne un occhio sulla porta che dava in strada e dai quei vetri era possibile osservare le persone che camminavano in entrambe le direzioni. Sì, c'era un treno anche di notte, all'1:30, proveniente da Roma. Chi fosse arrivato con quel treno sarebbe potuto scendere all'albergo, pertanto le porte sarebbero state aperte. I suoi pensieri galoppavano veloci. Se l'avesse preso sarebbe arrivata a Berlino poco dopo le 6 del mattino del giorno dopo ancora. Improvvisamente la porta vetri si spalancò e lei sussultò con tale violenza che quasi cadde dalla sedia. Poi si precipitò come una furia verso le scale in preda al terrore, senza nemmeno gettare un'occhiata dietro per vedere se davvero si trattasse di Ingram. Al sicuro nella sua stanza, si vergognò per aver provato un tale panico. Come avrebbe potuto svolgere tutte le azioni necessarie al ritorno se si comportava in quel modo irrazionale? Rimase ferma in mezzo alla stanza, torcendosi le mani. Si disse che se nella sua vita vi era un momento in cui doveva imporsi completo autocontrollo, pensare a mente fredda e aver mano ferma nell'azione, quel momento era arrivato. Ma come riuscire a rimanere calma e lucida quando il suo corpo era squassato da brividi di paura? Mentre se ne stava lì a lottare contro se stessa, si sentì talmente disperata, talmente esclusa da qualsiasi fonte di calore e amorevolezza, con un grande orrendo nulla dietro di sé in cui trovare coraggio, un altrettanto sterminato nulla nel suo futuro per cui sperare e guardare avanti, che il solo fatto di poter parlare con qualcuno, anche con un estraneo, le sembrava una forma di conforto meravigliosa, inesprimibile a parole. Anzi, un estraneo forse non avrebbe nutrito alcun pregiudizio verso di lei e avrebbe semplicemente ravvisato nel suo dolore un problema di natura familiare. Era certa che ogni essere umano presente in quel momento nell'albergo doveva pur qualche volta essere accaduto di sentirsi infelice. Sentiva un intollerabile desiderio di avvicinarsi per un attimo a un altro individuo, di chiedergli che cosa avesse provato mentre anche lui andava a fondo, mentre anche lui si inabissava tra i gorghi, dopo aver lasciato dietro di sé la propria terra bruciata. Non ti sei sentito anche tu infelice? Gli avrebbe chiesto. Non è mai capitato anche a te di sentirti incurabilmente infelice? Oh, caro compagno di infelicità, dimmi, non hai mai sentito nel tuo cuore un freddo pesante come la morte? Ma lì accanto a lei non c'era nessuno. Al mondo non esisteva fratellanza di sorta, se non nei rari momenti di comune catastrofe. Iniziò a percorrere la stanza in lungo e largo. L'una e mezza di notte era l'ora della fuga e in qualche modo tra quel preciso istante la partenza avrebbe dovuto rientrare in possesso del suo denaro. Chissà, magari Ingram l'aveva lasciato in camera, dimenticato nella tasca del cappotto che si era tolto all'arrivo quel pomeriggio in un momento di disattenzione. Era molto improbabile, essendo Ingram, come aveva già avuto modo di notare, estremamente ordinato e preciso. Non si scordava mai nulla in giro, non riponeva mai nulla fuori posto, eppure doveva tentare. Dischiuse di nuovo la porta con il cuore che le scoppiava di paura. Vi era pur sempre l'eventualità che lui potesse tornare indietro, avendo deciso che dopo tutto non aveva davvero voglia di cenare fuori dall'albergo. Il corridoio era deserto e Ingeborg sapeva che la camera di Ingram si trovava sullo stesso lato, ma 4 porte oltre la sua. Uscì e rimase un momento in ascolto, poi si diresse verso l'altra camera con aria spavalda, come se ne avesse ogni diritto. Una volta raggiuntala, con il cuore in gola, balzò dentro. Le luci della strada e delle case antistanti filtravano dalle finestre. Ingeborg ebbe così modo di osservare ogni angolo di quell'ambiente logoro, dimesso, una copia esatta della stanza che occupava lei, con il pavimento consunto dal trapestio di centinaia di commessi viaggiatori, in cui ogni oggetto era come impregnato dell'odore del fumo delle loro sigarette e delle loro ruzioni. La paura le provocava ondate di gelo e di calore in successione, si sentiva colpevole come un ladro. Il cappotto di Ingram era appeso dietro la porta. Lo tastò con dita tremanti. Le tasche erano vuote. In vista non vi era nulla che suggerisse l'idea di contenerle il denaro. I bagagli erano stati disfatti meticolosamente. Era dunque ovvio che non poteva aver dimenticato proprio il portafoglio. Con un sospiro quasi di sollievo uscì dalla stanza, chiuse rapidamente la porta dietro di sé e assunse quella che sperò apparisse un'aria neutra, il cui significato era pressappoco: ne ho tanto diritto quanto te, da inalberare a beneficio di coloro che avrebbe potuto incontrare. Poi percorse il corridoio in senso inverso. Nell'istante in cui raggiunse la sua porta, apparve Ingram, percorrendole le scale al volo, 2 gradini alla volta. D'un tratto, incapace di reggersi, si afferrò convulsamente alla maniglia. Io esordì. Egli però non parve sorpreso di trovarla lì, la sua attenzione era concentrata su qualcos'altro. Pensa, disse raggiungendola velocemente, ho lasciato il portafoglio zeppo di banconote in camera. È rimasto per tutto il pomeriggio nel cassetto del tavolo. Chissà se. E senza finire la frase, la superò quasi di corsa. Annaspando, Ingeborg riuscì a guadagnarsi l'ingresso nella sua camera, sentendo che il cielo l'aveva abbandonata. Dopo un paio di minuti sentì Ingram ripercorrere il corridoio. Si fermò fuori dalla sua porta e le disse a voce bassa: è tutto in ordine. Il portafoglio era ancora al suo posto. Siamo stati fortunati. Sì, molto, disse Ingeborg, ma in tono di voce così fievole che egli non riuscì a sentirla. Buonanotte, piccola mia, proseguì Ingram. Esco di nuovo a cena. Buonanotte, replicò Ingeborg, tanto debolmente che di nuovo lui non l'udì. Dopo un breve istante trascorso, rimanendo in ascolto, Ingram si allontanò. Ingeborg crollò sul letto, era in preda alla nausea, erano le 10:15, l'aspettava un'attesa di 3 ore. Sapeva che cosa avrebbe dovuto tentare di fare. Aluna si sarebbe tolta le scarpe, avrebbe percorso il corridoio per controllare se la porta di lui fosse chiusa a chiave. A quell'ora sarebbe di certo stato addormentato. Doveva, oh sì, doveva a tutti i costi essere addormentato. Ingeborg prese a torcersi le mani, dilaniata dal pensiero che a quell'ora lui potesse essere ancora sveglio. Chissà se Dio mi ama ancora, si chiese, se mi considera ancora sua figlia. Non ho forse peccato, mi sono poi pentita? Non ho fatto tutto ciò che è necessario per ottenere il suo perdono? Non può non aiutarmi, non ascoltarmi. È scritto che egli ama i malvagi e io lo sono. Il cuore quasi le si fermò all'orrido pensiero di non essere stata abbastanza malvagia da meritare il perdono divino. Sentì gli occupanti delle altre camere rientrare per la notte. Il vicino, nel prepararsi per andare a letto, canticchiò un allegro motivo in italiano. Poi si accese una sigaretta e il fumo passò nella sua stanza da sotto lo spiraglio della porta comunicante. Ingeborg giacque nell'oscurità, o piuttosto nella scacchiera di ombre e luci proveniente dalla finestra priva di tende, mentre ogni 2 o 3 minuti un tram passava coprendo ogni altro rumore. Ingram doveva già essere rientrato da un pezzo. A mezzanotte si alzò e sistemò le scarpe e il cappello dietro la porta in modo tale da poterli afferrare all'istante in caso di successo e darsi immediatamente alla fuga, giù per le scale fuori dall'albergo verso la stazione. Ora tentava di concentrare tutti i suoi pensieri unicamente sulla mossa successiva da compiere, rifiutandosi di guardare in fondo al baratro che si spalancava sotto i suoi piedi se avesse fallito. Si aggrappava a ciò che doveva fare nell'immediato, recuperare il denaro, fissando la propria attenzione solo su quel passo. Tornò a sdraiarsi sul letto, le mani serrate a pugno, come se custodissero tutta la sua determinazione. Una volta i suoi passi scivolarono via fino a Robert e alla grande desolazione di ciò che l'aspettava. Allora le lacrime uscirono attraverso le palpebre serrate con forza. È quello che ti meriti, sussurrò lottando per fermarle. Sì, ma Robert non se lo merita, Robert non se lo merita, tu l'hai rovinato. Sentiva la propria mente proseguire in modo autonomo quella linea di pensiero. Si scrollò di dosso l'angoscia, l'orologio segnava 1:15, si alzò in piedi e si mise in ascolto. Ora i tram passavano ogni 10 minuti, tra l'uno e l'altro l'hotel era silenzioso. Avrebbe atteso il prossimo tram, in assenza di ogni altro rumore si sentivano arrivare da lontano. Poi, senza scarpe, quando lo sferragliare fosse stato al massimo, avrebbe percorso il corridoio fino alla porta di Ingram e l'avrebbe aperta. Una morsa ghiacciata sembrava stritolarle il cuore, così ghiacciata che pareva bruciare. Non avrebbe mai immaginato che il suo corpo potesse produrre tante pulsazioni. La scuotevano senza posa, un'infinità di colpi poderosi, martellanti. Andò alla porta e l'aprì di uno spiraglio. Una luce a bassa tensione illuminava fiocamente il corridoio. Sentì il rimbombo di un tram che si avvicinava. Era giunto il momento, doveva sbrigarsi. Temette di non farcela. Rimase inchiodata a terra, tremante. Sentì il tram approssimarsi, imboccare la strada sottostante. Sapeva che il prossimo non sarebbe passato che dopo 10 minuti. Singhiozzando, si mise a pregare. Ecco, il tram aveva prodotto il suo fragoroso scampanellio. Aveva dunque raggiunto l'angolo della piazza e tra meno di un minuto sarebbe passato sotto l'albergo. Aprì la porta con movimento deciso e si mosse come un'ombra furtiva lungo il corridoio. Quando il clangore del tram fu all'apice, afferrò la maniglia della porta di Ingra e la girò. Non era chiusa a chiave. Si ritrovò nella stanza. Il tram si allontanò portando con sé il suo sferragliamento. Ingra respirava profondamente addormentato e lei quasi pianse di sollievo. Com'è ridicolo, pensò, dopo aver gettato nella sua direzione un'occhiata impaurita, approfittando della striscia di luce che il lampione della strada proiettava sul letto, mentre gli strati sottostanti della sua mente si concentravano interamente sul portafoglio. Quelli più superficiali furono percorsi da un pensiero incoerente. Com'è ridicolo andare a letto con la barba? Si diresse furtivamente sino al tavolo e dopo aver scorso con sguardo frenetico i numerosi oggetti che vi erano sparpagliati, ma non trovandovi nulla, tentò con il cuore in gola di aprire il cassetto, ben attenta a non produrre il minimo rumore. Sempre concentrata nel rilevare la più impercettibile regolarità del respiro proveniente dal letto, mentre lo strato più superficiale dei suoi pensieri seguiva un'assurda filastrocca. Ridicolo andare a letto con la barba, ridicolo dormire tenendosela addosso, ridicolo non togliersela la sera per appenderla fuori dalla porta con i vestiti per una spazzolata poderosa. Il cassetto scricchiolò nell'aprirsi. Il ritmo del respiro cambiò. Ingeborg, pazza di terrore, si paralizzò all'istante. Il respiro riprese a regolare. E comunque, il cassetto si rivelò vuoto. Disperata cercò attorno a sé nella stanza. Sul comodino accanto al cuscino si trovavano l'orologio e il fazzoletto, nient'altro. Il comodino però aveva un piccolo cassetto. Doveva guardare anche lì, Ma come fare ad aprirlo, dato che era così vicino alla sua testa, senza svegliare Ingra? Si avviò in punta di piedi, fermandosi a ogni passo. Trattenendo il fiato, rimaneva in attesa con le orecchie ben tese prima di compiere il passo successivo. Il cassetto non era chiuso del tutto e il rumore impercettibile che fu necessario produrre per allargare quella fessura non alterò il ritmo del respiro di lui. Ingeborg infilò la mano ed estrasse il portafoglio. Sfilò alcune banconote, una manciata di banconote italiane, le prime che trovò, e proprio mentre stava per girarsi e scappar fuori, sentì il suo corpo trasformarsi in una statua di pietra. Ingra la stava guardando. Aveva gli occhi aperti e la stava osservando, con aria assonnata, non del tutto sveglio, come se si sforzasse di concentrarsi su un pensiero. Rimase ipnotizzata per l'orrore, fissandola a sua volta, incapace di muoversi, la mano che stringeva forte il denaro nascosta dietro la schiena. Poi lo allungò un braccio e le afferrò il vestito. Ingeborg! Chiamò con voce impastata, per metà ancora immerso nei sogni da cui stava tentando di emergere. Tu! Mio piccolo angelo d'amore, sei proprio tu! Allora sei venuta finalmente! Sì, balbettò Ingeborg tentando di sottrarre il vestito dalla sua presa, completamente atterrita, gettandosi a capofitto come sempre quando si trovava con le spalle al muro sulle prime parole che le balzavano alla mente. Sì, certo, ma devo tornare un attimo nella mia stanza, solo un attimo. Lasciami andare, per favore. Vengo subito, io ho dimenticato lo spazzolino. E Ingram, ancora intorpidito dalla potenza del primo vero sonno che avesse avuto da svariate notti e solo parzialmente vigile, mormorò con la stolta e facilmente paga ragionevolezza di quella condizione. Non metterci troppo, allora, mia piccola dolce compagna. E così, dicendo, aprì la mano che stringeva il vestito. Capitolo 37. 2 giorni dopo si offrì alla vista del facchino della stazione di Moek lo spettacolo di Frau Dremmel che tentava di aprire la porta di uno scompartimento di terza classe sul treno del primo pomeriggio proveniente da Hallenstein. Nel dirigersi da lei per assisterla, non essendovi altri passeggeri a richiedere i suoi servizi, notò con sorpresa che la signora era priva di bagaglio. Strano. Solo una settimana prima aveva caricato a bordo con le sue mani un baule dopo aver incollato su di esso un indirizzo di Berlino. Animato dal semplice interesse di un uomo solitario che ha parecchio tempo a disposizione, le chiese se per caso avesse smarrito il bagaglio. Si stupì però di notare che ella non rispondeva alle sue domande. Poi la informò, o per meglio dire, scandì quelle parole a voce alta al suo indirizzo, dato che lei si stava allontanando, che la carrozza di Herr Pastor non era ancora arrivata. Di nuovo si sorprese di non ricevere risposta. Si fermò per osservarla, chiedendosi che cosa vi fosse di strano in lei. Avvezzo infatti com'era la trasandatezza su di sé, faticava a non individuarla negli altri. Pertanto i segni rivelatori su Ingeborg della spossatezza e del viaggio prolungato gli sfuggirono totalmente. Perplesso, scrollò il capo mentre l'oggetto dei suoi interrogativi scompariva oltre la porta della stazione. Poi ricordò che quella povera donna era un Engländerin. Spiegazione sufficiente a distoglierlo dai suoi quesiti, a spegnere ogni curiosità e ritenersi soddisfatto come colui che, impegnato nella ricerca dell'etichetta giusta, l'abbia trovata applicata. Tutta Moek, mentre Ingeborg la percorreva, scuoteva il capo osservandola e si consolava quando lei non rispondeva ai suoi saluti, anzi pareva non accorgersene nemmeno, con la stessa spiegazione successiva scrollata di spalle, Engländerin. Robert Lette Ditti, camminando compostamente verso la scuola per le lezioni pomeridiane, all'improvviso consapevole della propinquarsi della loro genitrice con un aspetto bizzarro e scarmigliato, che non solo non accennava a fermarsi, ma non pareva nemmeno accorgersi della loro presenza, mormorarono uno all'altro, essendo stati ben indottrinati dalla nonna, la medesima spiegazione: Engländerin. Frau Dremmel, porgendosi oltre il davanzale per seguire con lo sguardo i discendenti di cui era responsabile fino a che non fossero scomparsi oltre l'angolo e indugiandovi un attimo per godere della dolce aria estiva, commentò a sua volta il passaggio di quella figura con la laconica definizione Engländerin. Sua nuora, infatti, dava spettacolo di sé, camminando sfacciatamente in mezzo alla strada, non degnandola di uno sguardo, senza nemmeno un pacchetto in mano che legittimasse la sua uscita, né un ombrello che le desse un contegno. Le mani privi di guanti penzolanti lungo i fianchi, una scandalosa esiguità di forcine in testa e vestiti tutti spiegazzati. Inaudito. La baronessa Glömbeck, che si stava recando in città sulla sua carrozza lungo la strada maestra, punteggiata dall'ombra degli alberi, Impegnata in una di quelle opere di carità alle quali i potenti si trovano a dover sottostare a intervalli regolari, i piedi posati accanto a un cesto contenente vettovaglie di sua proprietà, principalmente marmellata fatta in casa e guanti di lana, si sforzò inutilmente di arginare lo smacco provocato dall'essere snobbato dalla moglie del proprio pastore, una donna che in quel momento dava la strana impressione di essere coperta di stracci, e utilizzò a sua volta la parola englandering per rivolgersi alla domestica che di solito l'accompagnava in tali occasioni, dato che qualcuno doveva pur trasportare i pesi. Persino gli uccelli, posati sui rami, essendo uccelli tedeschi, stavano senza dubbio cinguettando la stessa parola, e i cani, che stigati dalla sua sciatteria, fiutavano l'odore della sventura e rivelavano l'alieno nascosto in lei, abbaiavano al suo indirizzo, ma finivano per non scoprire nulla che un diligente cane di razza tedesca potesse trovare di proprio interesse. Infine, quando su un tratto di strada solitaria incontrò un mendicante, questi, invece di chiedere un obolo, si offrì di pagare da bere. Il viale che curvava in direzione di Kökensee era un luogo così delizioso in quel magnifico pomeriggio d'inizio estate, così sfolgorante sotto i raggi del sole, così allegro per quella sua numerosa popolazione di uccellini e insetti svolazzanti e indaffarati, nonché abbellito dall'ulteriore ornamento della tenue freschezza delle giovani foglie lustre, che la figura misera e vacillante che vi arrancava pareva un affronto. In quel mondo di forza e vigore sembrava non esservi posto per le anime affrante, e il trionfo irradiato quel giorno dall'universo non cedeva il passo di un millimetro al senso di fallimento. Si trattava di quel genere di giornata che in passato avrebbe mandato Ingeborg in visibilio. Ora, invece, era cieca e sorda a tutto. L'unica cosa che percepiva era il fondo sabbioso. Presto incominciò a piangere. La sabbia infatti sembrava cedere sotto i suoi piedi per dispetto, per farla incespicare e ritardare il suo ritorno a casa. Il profilo dei tetti che si stagliava contro il cielo pomeridiano sembrava non avvicinarsi mai nonostante i suoi sforzi colossali, mentre con fatica guadagnava terreno passo dopo passo. Le lacrime le ne ondavano il viso. Temeva che non ce l'avrebbe fatta ad arrivare, che avrebbe dovuto fermarsi a metà strada per il troppo sfinimento. Le appariva orribile, inconcepibile, che lei, un'eccellente camminatrice, proprio ora non riuscisse a procedere per raggiungere casa sua. E quella sabbia chiara, oh, com'era fine, come scivolava via, sottraendosi all'appoggio dei piedi in qualsiasi modo uno avesse l'accortezza di posarli. E nonostante le penetrasse nelle scarpe, Ingeborg non osava fermarsi per toglierla, per paura che una volta seduta non sarebbe più stata in grado di rialzarsi. Si muoveva sulla strada sempre più lentamente. Quando raggiunse la parte più ripida, subito prima del villaggio, il suo portamento era diventato simile allo strisciare di un insetto ferito. Durante il viaggio si era dimenticata di mangiare e a Milano non si era nutrita che di qualche fetta biscottata. Essendo tutti al lavoro nei campi, quel pomeriggio la strada era deserta, sonnolenta. Le uniche presenze parevano essere quelle del maiale e dell'oca nel cortile della canonica. Fortunatamente il cancello nella cinta di rete metallica intorno alla casa e al giardino era solo accostato. Se fosse stato chiuso, infatti, lei non avrebbe potuto, non avrebbe avuto la forza sufficiente per aprirlo e se ne sarebbe rimasta lì, singhiozzando, fino a che qualcuno non fosse venuto in suo soccorso. A quel punto, anche l'ostacolo più risibile sul suo cammino equivaleva a una difficoltà insormontabile. Il portoncino d'ingresso era serrato e, piuttosto che salire i pochi gradini e tentare di aprirlo, preferì percorrere il sentiero che costeggiava il lato della casa e che conduceva ai cespugli di lilà e alla finestra del laboratorio di Robert. Da lì poteva raggiungere la cucina, collocata allo stesso livello del giardino, la cui porta era sempre aperta. Di sicuro Robert doveva essere fuori, nei campi. L'avrebbe aspettato in laboratorio. Per ora nessuno sapeva nulla. Lui era il solo. E lei era rientrata prima dello scadere del suo permesso. La vergogna che stava per investire suo marito non era ancora di dominio pubblico. Se solo si fosse limitato a picchiarla, senza intraprendere ulteriori azioni, pensò debolmente, in modo distaccato. Non sarebbe stato sufficiente. Così nessuno avrebbe saputo. Lui sarebbe potuto rimanere a Kökensee a proseguire il suo lavoro e lei non sarebbe stata cagione della sua totale rovina. Era proprio il pensiero di aver rovinato Robert, infatti, ciò che più l'angustiava. Averlo rovinato proprio quando ogni sua speranza e ambizione era stata quella di renderlo felice. Sapeva bene che quando la moglie di un pastore infrangeva il settimo comandamento veniva allontanata in quanto presenza scandalosa, inaccettabile in seno alla comunità. Il fatto che lei non l'avesse davvero infranto era ininfluente. Ciò che importava, infatti, non era tanto ciò che si era o non si era commesso, quanto ciò che denunciava l'apparenza. E anche qualora Robert l'avesse uccisa, la situazione non sarebbe migliorata. Avrebbe sì compiuto l'unico gesto sensato possibile, come la baronessa Glumbeck e suo figlio Hildebrandt avevano enunciato parecchio tempo addietro, lavando l'onta nel modo che ogni buon tedesco conosce, ma si sarebbero comunque presentati degli svantaggi, dato che, alquanto illogicamente, l'uomo veniva poi punito per il suo delitto. E benché in genere si trattasse di una pena minore, qualsiasi sanzione avrebbe decretato la fine immediata della carriera di un pastore. Si trascinò oltre l'angolo della casa. Si sentiva così estenuata che se avesse dovuto attendere il marito troppo a lungo nel suo laboratorio, difficilmente sarebbe riuscita a rimanere sveglia. Beh, se lui fosse rientrato e l'avesse uccisa mentre dormiva, per lei sarebbe stata di certo la soluzione migliore. Era talmente sfinita che non le dispiacque l'idea di svegliarsi e ritrovarsi confortevolmente morta. Ma Robert non era nei campi. Dal sentiero sotto la finestra scorse la sua testa, come l'aveva vista centinaia di volte, china sopra il tavolo. Ingeborg si immobilizzò, il cuore contratto in uno spasmo che gli impediva di battere. Eccolo, il marito disonorato, colui che in tutta la sua esistenza si era dimostrato in assoluto la persona più gentile, che più l'aveva amata. Eccolo ancora all'opera, che proseguiva a caparbio le sue ricerche tra l'ammasso di rovine che lei avrebbe inesorabilmente provocato sino all'ultimo istante di quella vicenda, quando l'opinione pubblica, ottusa e brutale, l'avrebbe dichiarata colpevole, benché lei non lo fosse affatto, e avrebbe gettato in un angolo come spazzatura lei stessa e i suoi più intimi desideri, ritenendoli questioni di nessuna importanza, proprio come era accaduto riguardo al suo personale dilemma se avere o meno dei figli. E l'aspetto più assurdo era che tale condanna sarebbe stata pronunciata unicamente sulla base di trascurabili inezie, se le si paragonava ai valori davvero importanti della vita. Quelle inezie non erano altro che errori di una donna che aveva agito troppo ingenuamente. Non poteva credere che quella distorsione di giudizio sarebbe stata causa della fine dell'attività del marito, della mancata offerta al mondo degli immensi vantaggi che l'uso della sua intelligenza avrebbe prodotto. Beh, era inutile rimuginare ancora su quei pensieri, e in ogni caso non era certo in grado di soffermarsi su un pensiero per più di un istante. Sapeva solo che era giunto il momento di affrontare Robert e si sentiva terribilmente stanca, stanca da morire. Sentiva la mente appesantita e riluttante a procedere non meno del corpo. Qualsiasi cosa avesse deciso Robert, era sua ferma intenzione rimanere abbracciata a lui. Era così stremata che sperò non gli dispiacesse se, mentre lui la picchiava, lei si sarebbe tenuta stretta al suo collo e magari avrebbe dormito un po'. Povero Robert, pensò, che brutto doverlo istigare alla violenza, spingerla a percuoterla. Inoltre non poteva evitare di considerare quale spreco non indifferente fosse punire una persona troppo stanca per poterlo apprezzare a dovere, impossibilitata ad accogliere la punizione nel giusto modo. Proseguì lungo il sentiero, in direzione della porta sul retro. Che strano effetto le procurava l'idea di dover entrare nel laboratorio di Robert per riceverne dolore. Beh, comunque se l'era meritato. Comprendeva perfettamente tutta la questione riguardante il suo onore e le necessità che ne scaturivano. Sì, lo capiva perfettamente. Un uomo doveva. A che cosa esattamente stava pensando? I pensieri tendevano a sfuggirle. Che cosa in realtà doveva fare un uomo? Se la punizione che lui le avrebbe inflitto di lì a poco avesse potuto cancellare ogni conseguenza di ciò che lei aveva commesso, costituendo una completa, perfetta e insufficiente. No, ciò che andava pensando era blasfemo. Che seccatura che i pensieri le si formulassero nella testa unicamente sulla base di frasi tratte dal libro delle preghiere. E come trovava difficile da persona che aveva sempre avuto a che fare con molti libri di preghiera non formulare in quel frangente pensieri profani. A suo modo di vedere, e data la situazione contingente, nessuno avrebbe ricavato nulla di buono da quella punizione. Che sciocca l'idea della punizione! Quali benefici apportava? Le conseguenze delle azioni erronee compiute da un essere umano erano senz'altro già sufficientemente devastanti, allora perché mai ingigantire la devastazione? D'altro canto, nemmeno il perdono sembrava essere di alcuna utilità. Cancellava il passato, aveva sentito dire più di una volta dal pulpito, ma non poteva cancellare il futuro, il dover vivere ogni giorno immersi in conseguenze che in quel momento paventava essere al di là di ogni capacità di sopportazione. Beh, non era più il caso di pensarci ormai. Intanto era giunta presso la porta della cucina. Ecco infatti Clara, intenta a svuotare un secchio. Nel vederla, la fissò con gli occhi sgranati e la bocca aperta. Perché la guardava così? Possibile che sapesse già? Almachtigogot! Esclamò, lasciando cadere a terra il secchio. Sì, evidentemente Clara sapeva, pensò Ingeborg trascinandosi attraverso la cucina fino al corridoio. invece di Guten Tag. Doveva essere ciò che in Germania una donna diceva quando la sua padrona tornava a casa in disgrazia. Ma anche questo adesso non aveva più importanza. Ecco l'angusto corridoio, così oscuro che quando la porta d'ingresso era chiusa bisognava quasi procedere a tentoni. Quello spazio pareva non essere mai stato areggiato dal giorno della sua partenza. L'atmosfera era pesante e satura dell'odore di cucina. Quando si trovò sullo sgabello della porta del laboratorio con l'inchiavistello in mano, suppose che fosse quella esalazione a farla sentire sul punto di svenire. E poi era troppo buio. Poteva essere che all'improvviso non riuscisse più nemmeno a vederla. Allarmata, ricordò la perdita dei sensi successiva al ritorno da Lucerna, un viaggio trascorso in preda ai rimorsi di coscienza. Ma allora era proprio destino che passasse la vita compiendo viaggi in cui la coscienza li rimordeva e che svenisse nella fase più critica del pentimento da e ad essi seguente. Terrorizzata che le accadesse di nuovo, aspettò ancora un attimo per essere certa di non cadere in quel poco onorevole atteggiamento femminile di chi commette peccato e si appella poi a una grande estenuazione fisica al fine di assicurarsi il conforto, quando non il perdono. Chiamando a raccolta tutto il suo coraggio, aprì la porta. Herr Dremmel era seduto al tavolo e scriveva. Non alzò nemmeno la testa. Robert, esordì Ingeborg debolmente, la schiena appoggiata contro la porta e i palmi delle mani allargate per sorreggersi meglio ad essa. Sono qui. Herr Dremmel continuò a scrivere. Stando a ogni apparenza, era profondamente immerso nel lavoro e la sua fronte, in quel pomeriggio estivo, era imperlata di sudore dovuto alla concentrazione. Robert, si risolse a pronunciare di nuovo con voce scossa da tremito, nonostante il fermo tentativo di mantenerla salda. Sono qui. Herr Dremmel terminò di comporre la frase, poi sollevò la testa e la guardò. Ingeborg si sentì traboccare di disperazione e di paura, ma nonostante la disperazione e la paura, trovò il coraggio di non abbassare gli occhi. Aveva riconosciuto quello sguardo. Robert l'aveva ogni volta che compiva lo sforzo enorme di distogliere la propria attenzione da luoghi remoti, da immense profondità, per lasciarla emergere in superficie fino al mondo reale, fino a lei. Strano che anche quel frangente gli dovesse immergersi per richiamare a sé tutta la propria attenzione, che non le balzasse all'istante al collo e che l'odio per la propria moglie, per la devastazione di cui era la causa, non fosse già penetrato totalmente in ogni sua più intima fibra. Che cosa hai detto, Ingeborg? Chiese osservandola con quello sguardo così familiare. Ella fu consapevole che nonostante i lunghi anni di convivenza con l'uomo, l'era per certi aspetti ancora estraneo. Ho detto solo che sono arrivata, che sono qui. La osservò ancora per la durata di un breve istante di silenzio. Fulminea balzò alla mente di Ingeborg l'idea che suo marito stesse orribilmente fingendo, come un attore, e che volesse tormentarla un po' prima di punirla, avendo deciso di farla soffrire lentamente con crudeltà. Herr Dremmel, con l'espressione di colui che chiama raccolti i propri pensieri come un felino che si apposta prima di spiccare il balzo sulla preda, le chiese con indicibile orrore da parte di Ingeborg se avesse camminato fino a casa. Sì, rispose lei con voce ancora più sottile, gli occhi guardinghi e colmi di paura. Egli seguitò a guardarla, ma nel frattempo la sua mano cercava tentoni appena posata. Ingeborg riconobbe anche quello sguardo. Era stupefacente, incredibile quanto fosse abile a fingere. Si trattava dello stesso sguardo che aveva quando, interloquendo con qualcuno, una nuova illuminazione riguardo al tema di cui stava scrivendo gli folgorava la mente. Adesso era certa che le sarebbe accaduto il peggio. Prima però vi sarebbe stata una tortura, un accordo, lento, farsi gioco della preda. Quel piano rivelò in lui doti di astuzia e crudeltà e una sagace arte della finzione che le gelarono il sangue. Dov'era Robert? L'uomo tanto alla mano che credeva di avere conosciuto. Era un estraneo allora colui con il quale aveva vissuto. Era evidente che in tutti quegli anni non era mai stato l'uomo che lei credeva di aver sposato. Robert, ti prego, lo implorò allungandosi verso di lui, non fare così. Non riesci a comportarti in modo spontaneo. Lui in silenzio continuava a guardarla, poi disse con l'aria di chi ricordi all'improvviso: Hai acquistato gli stivali che cercavi, Ingeborg? No, questo era troppo. Come poteva parlare di stivali, gettarle in faccia le sue meschine menzogne? Sai benissimo che la risposta è no, gli disse mentre lacrime di vergogna per la sua crudeltà le affioravano agli occhi. Di nuovo Herr Dremmel la guardò come se stesse rimestando tra i ricordi, come se si stesse sforzando di rievocare, di trovare una traccia. Lo so? La interrogò dopo una frase di pensosa riflessione durante la quale Ingeborg era arrossita visibilmente per poi impallidire, tanto il turbamento causato dallo scorcio di disumanità intravisto in lui. Era diabolico, pensò. Robert, diabolico? Possibile! Sentiva che il mondo le crollava sotto i piedi. Credo, disse sollevando la testa in un modo di orgoglio che avrebbe piuttosto dovuto provare lui, ma che evidentemente, malauguratamente, lui non provava. Credo sia giusto che tu impartisca il castigo da vero uomo. Seguì un'ennesima pausa di silenzio, durante la quale Herr Dremmel, gli occhi fissi in quelli di lei, pareva assolto in un'attività simile a ruminare. Indi le domandò: Allora ti sei divertita? Questo poi si dimostrava empio oltre ogni misura. Anche nella finzione, pensò Ingeborg, vi erano profondità di abiezione che un essere decente doveva rifiutarsi di recitare. Credo, disse con voce tremante, che se tu smettessi di fingere, oh, esclamò congiungendo con forza le mani, Robert, dimmi qual è il beneficio di tutto questo? Dimmelo, ti prego, qual è? Non sprechiamo altro tempo, non rendiamo tutto ancora peggiore, ancora più orrendo. Hai letto la mia lettera? Quindi sai tutto. La tua lettera? Chiese Herr Dremmel. Lei lo pregò, lo supplicò di smettere quella finzione. Per favore, non continuare con questa farsa, è un modo troppo tremendo per punirmi, troppo indegno. Ingeborg, non vuoi proprio tentare di riappropriarti della tua compostezza? Hai viaggiato e hai camminato, ma non hai fatto né l'una né l'altra cosa in misura tale da giustificare tanta intemperanza. Forse, se proprio devi essere così smodata, vorrei avere la bontà di farlo nella tua stanza, così nessuno dei due disturberà l'altro. No, non andrò, non andrò in nessun'altra stanza prima che tu abbia concluso con me. Ma io ho concluso con te e gradirei prendere il tè. Devo essere ai campi sperimentali per le 5. Oh, Robert, lo implorò, scioccata oltre ogni possibilità di espressione. Intendeva forse tormentarla in quel modo all'infinito. Ti prego, fai subito ciò che devi fare e che sia finita. Sono qui, non aspetto altro che di essere punita. Punita? Ma è mai possibile? Gridò Ingeborg con lo strazio della voce e gli occhi lucidi per l'ostinata abiezione in cui lui dava mostra. Che tu non sia nemmeno all'altezza di punirmi, nemmeno all'altezza di punire una donna per bene. Sei un essere spregevole. Herr Dremmel la fissò. Questo è vituperio, o perlomeno rassomiglia parecchio ciò che un ragionevole essere umano definirebbe tale. Comunque, Ingeborg, come ho già avuto modo di notare, l'eloquio in te non sempre si rivela pregno di significato, forse dovrei dire che spesso non ha senso alcuno. Ingeborg si mosse verso il tavolo, avvicinandosi a lui, gli occhi scintillanti. Vide che teneva la penna pronta, chiaramente impaziente di proseguire il suo scritto non appena lei avesse avuto la bontà di porre fine a quell'interruzione. Robert, gli disse con voce rotta dall'emozione, appoggiandosi sul piano del tavolo con entrambe le mani. Io non avrei mai creduto che un giorno avrei provato vergogna per causa tua. Potrei sopportare qualsiasi cosa, ma non quella di vergognarmi di te. Forse allora, Ingeborg, disse Herr Dremmel, vorrei avere la bontà di andare a vergognarti nella tua camera, così nessuno dei due disturberà l'altro. È orribile che tu debba distorcere ogni cosa mettendomi nella posizione di colei che deve perdonare quando in realtà sono io a dover essere perdonata. Di grazia, Ingeborg, vai a perdonarmi in camera tua, così nessuno dei due. Ti stai comportando in modo così crudele, non riesco a crederci. Tu, mio marito, stai giocando con me come un gatto che si diverte a stuzzicare un inerme topolino, un topolino miserevole e pentito, una creatura impotente che nulla può fare per difendersi e che se anche potesse non lo farebbe ugualmente. Non vedi quanto è ingiusto che tu mi faccia parlare così tanto quando invece sei tu quello che dovrebbe parlare? Ti prego, Robert, incomincia a dirmi qualcosa, a farmi qualcosa, così che poi sia tutto finito. Hai letto la mia lettera, quindi sai perfettamente che cosa è accaduto. Non ho letto nessuna lettera, Ingeborg. Quanto è atroce da parte tua negarlo. Quando sai bene di averla letta così, come sai bene che io so che l'hai letta. Sai di che cosa parlo? Della lettera che ti ho lasciato su questo tavolo. Io non ho visto nessuna lettera su questo tavolo, eppure l'ho messa qui, proprio qui. Sollevò la mano per indicare con concitazione il punto esatto in cui l'aveva posta e lì sotto apparve la lettera. Sentì un'enorme scossa squassarle il petto, indi il suo cuore sembrò arrestare i battiti. La lettera era ancora dove l'aveva messa, sigillata. Sollevò lo sguardo verso di lui, arrossì poi impallidì. Sentì di aver toccato il fondo in quell'ignobile vergogna. Io ti chiedo scusa, mormorò. Redremmel assunse un'aria di leggera costrizione. Capita occasionalmente che qualcosa sfugga di vista, concesse. Sì, convenne Ingeborg in un soffio. Rimase immobile, gli occhi fissi sul viso di lui. Redremmel estrasse il suo orologio. Forse adesso, Ingeborg, sarei così gentile da provvedere al tè. Tra poco mi devo avviare ai campi di prova. Sì, certo, rispose Ingeborg, la voce poco più di un sussurro. Lui si chinò di nuovo sulle sue carte e riprese a scrivere. Ingeborg allungò la mano e con lentezza prese la lettera. L'ossequio e l'obbedienza, che intrideva copiosamente tutti i precetti che il vescovo le aveva impartito, la spingeva verso quell'azione che tanto spesso risulta fatale a una durevole quiete familiare, il liberarsi la coscienza da ogni peso. Vuoi, esordì con voce tremebonda, offrendo la lettera con poca convinzione. Poi la voce le venne meno. I principi più elevati l'abbandonarono, i precetti di tutta una vita la disertarono. Si rimise la lettera in tasca. È superata, oramai, spiegò con un fil di voce. Erdremel continuava a scrivere. Si era già dimenticato della lettera. Ingeborg gli girò le spalle e si avviò lentamente verso la porta. In mezzo alla stanza ebbe un'esitazione. Si voltò verso di lui. Io vorrei darti un bacio, disse incespicando con le parole. Herdremme seguitava a scrivere. Si era già dimenticato di lei. Fine.